America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo dedicato alla regina Elisabetta, God Save the Queen, l'inno inglese, la nostra apertura, perché abbiamo avuto qui a New York solo per 5 ore, ma comunque c'è passata la regina Elisabetta alle Nazioni Unite. Non passava dalle Nazioni Unite dal 1957, 53 anni fa. Sentiamola allora. Right of the peoples of the world to live their lives in freedom. Una voce pungente, giovane, ma che lancia un messaggio. Le Nazioni Unite, che erano appena nate, dovranno trasformarsi da un ideale a una realtà. Sentiamola oggi. I address you today as Queen of 16 United Nations member states. And as head of the Commonwealth of 54 countries. Voce più calda, come avete sentito, meno pungente, più riflessiva, con un messaggio centrale. Puntiamo all'unità. Le Nazioni Unite ci sono per guardare in avanti, non voglio guardare in indietro. Ci sono una gran quantità di problemi aperti e dunque l'unico modo in cui possiamo risolverli è con unità di intenti e muovendoci tutti su una stessa direzione, con comprensione reciproca. In un momento in cui l'unità o l'unità di intenti è difficile da trovarsi, ci hanno provato a Washington Barack Obama e il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu. Hava Nagila, grande danza israeliana, hanno danzato in effetti alla Casa Bianca Netanyahu e Barack Obama, hanno ritrovato il dialogo, hanno fatto di tutto. Non soltanto per dimostrare di aver chiuso questa freddezza reciproca nella relazione, ma per dare l'idea che ci sono stati dei progressi molto concreti. Sentiamo Netanyahu. The President and I discussed concrete steps. Un'affermazione piuttosto forte, quella di Netanyahu. Dice che lui e il presidente hanno discusso dei passi molto concreti da fare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per muovere in avanti il processo di pace in Medio Oriente in maniera, sottolinea, molto robusta. E quando dico nelle prossime settimane è quello che intendo, ha detto Netanyahu. Come si è arrivati a questa svolta? L'idea, intanto nessuno dei due l'ha detto, ma l'idea è che entro le prossime settimane possa esserci un dialogo diretto tra Netanyahu e il leader palestinese Abu Mazen. E come si è arrivati, vi dicevo, a questo? Beh, perché dalle varie parti in causa sono giunti dei segnali di distensione. Molto avviene dietro le quinte, ad esempio, ha detto Netanyahu. E dunque dietro le quinte che cosa è successo? Beh, intanto c'è stata la dimostrazione di buona volontà, dimostrazioni tutte queste di buona fede gli uni nei confronti degli altri. Dicevo, la dimostrazione di buona volontà da parte di Israele, che ha allentato i controlli alla frontiera con Gaza per l'invio di derrate alimentari e di medicinali. Poi ieri l'annuncio da Gerusalemme, le forze armate israeliane hanno annunciato di aver deferito alla corte marziale un gruppo di soldati ufficiali dell'esercito per aver condotto azioni militari improprie contro civili durante l'offensiva israeliana a Gaza nell'inverno 2008-2009. Quell'offensiva fu condotta in risposta ai continui attacchi con razzi, missili da Gaza contro Israele. Ecco, fra gli ufficiali un comandante di battaglione è stato accusato di aver deviato da un comportamento appropriato quando ha usato un palestinese come scudo umano per proteggersi mentre entrava in una casa dove c'erano asserragliati militanti di Hamas. Poi ci sono altri crimini, tra virgolette, di cui si sono resi colpevoli altri militari. Finora Israele aveva respinto qualunque iniziativa delle Nazioni Unite per cercare di perseguire i colpevoli, dunque un'apertura nei confronti degli Stati Uniti e nei confronti, naturalmente, dei palestinesi. E poi la terza concessione, che ancora non è annunciata ma sicuramente nelle carte, è che la moratoria per la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania scadrà alla fine di settembre. Ecco, si dà per scontato che questa moratoria sarà anch'essa rinnovata. Da parte palestinese invece sono stati compiuti passi in avanti per garantire la sicurezza, e lo stesso Obama poi nella conferenza stampa lo ha detto. Sentiamolo. I commended Ecco, Obama parla di progressi reciproci sul campo, parla di progressi sulla striscia di Gaza, ma poi sottolinea anche che Abu Mazen, al lavoro con Fayyad, che è uno dei suoi principali collaboratori, ha prodotto alcuni significativi sviluppi sul fronte proprio della sicurezza. Washington poi è intervenuta in appoggio a Israele, quindi ognuno ha fatto qualche cosa. La dichiarazione più forte di ieri del presidente Barack Obama riguarda la questione della bomba atomica. Anche qui nessun commento diretto, ma indirettamente Barack Obama ha detto che Israele ha il diritto di difendersi in tutti i modi, dunque un avallo che da sempre c'è stato da parte degli Stati Uniti al fatto che Israele possa avere la bomba atomica e invece la continua negazione a che l'abbia l'Iran. E su questo punto Netanyahu si è congratulato con Obama perché dice le risoluzioni passate, le sanzioni approvate in Consiglio di Sicurezza hanno denti, mordono. Ecco, un'atmosfera dunque decisamente collaborativa, svolta di 180 gradi rispetto a marzo, quando Barack Obama lasciò Netanyahu così al freddo aspettare da solo nella Roosevelt Room, dopo che lasciò la stanza, si era irritato con Netanyahu sulla questione degli insediamenti, disse vado a mangiare con la mia famiglia, ci vediamo dopo, e quindi Netanyahu fu lasciato da solo, un trattamento che la stampa israeliana definì inaccettabile. Poche settimane prima però il governo israeliano aveva annunciato nuovi insediamenti nei territori. Ecco, Obama nega che ci siano state delle vere tensioni, ma le vere tensioni c'erano e come. Ecco, dunque questo cambiamento d'umore rispetto alla freddezza di marzo c'è anche perché, non dimentichiamolo, ci sono elezioni politiche in America in novembre, anche Netanyahu ha bisogno di qualche risultato politico, dunque improvvisamente sembra che gli astri si stiano muovendo nella direzione giusta. A questo punto sentiamo un'altra danza. Ecco, questa è una musica turca e devo dire, sempre restando in tema di unità, nell'appello della regina Elisabetta, continuo a chiedermi ma perché mai debba esserci questa tensione ancora fra Israele e Turchia? Beh, lo sappiamo perché, Israele ha attaccato il convoglio dei pacifisti soi-disant, perché poi sappiamo che erano degli attivisti con alcuni uomini armati. Ecco, ieri la Turchia ha chiesto le scuse di Israele, ha chiesto dei gesti concreti, di rispettare l'inchiesta delle Nazioni Unite, altrimenti dice interromperemo le relazioni diplomatiche. Ecco, io spero che la danza possa riprendere anche tra Turchia e Israele, perché sono due paesi essenziali, centrali per gli equilibri del Medio Oriente, tanto più che la Turchia sta facendo dei progressi straordinari sul fronte economico. Direi che è la Cina, l'India e il Brasile del Mediterraneo, perché ha avuto tassi di crescita molto forti e nel momento in cui l'Europa in qualche modo aveva isolato la Turchia, beh, la Turchia risponde con dei progressi. Nel momento in cui l'Europa è in difficoltà, la Turchia, che aveva una percentuale di disavanzo sul PIL del 16%, un'inflazione del 72% e altre grani economiche non da poco, appena pochi anni fa, appena 10 anni fa, beh, ha rimesso le cose in ordine. Pensate, è al di sotto del 60% nel rapporto debito-PIL, addirittura è al 49%, noi siamo al 110%, l'inflazione è all'8%, quindi molto vicina a livelli accettabili, soprattutto rispetto al 72%, e il rapporto disavanzo pubblico bilancio è al 3%, sono tutti dati che sono conformi ai requisiti per entrare nell'euro. Beh, i paesi europei sono in più gravi difficoltà della Turchia, anche lì perché non si cerca una via comune. Speriamo che l'appello della regina Elisabetta vada al di sopra di tutto e che questa danza e questo dialogo medio orientale si faccia rotondo, includendo tutti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Alcuni li troverete su america24.com, ad esempio la citazione in giudizio del governo americano contro l'Arizona per la legge sull'immigrazione che ha scatenato polemiche di ogni genere. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedico a Ringo Starr, compie 70 anni. La canzone che ho scelto, beh, è una canzone di compleanno che guarda ai teenager e alla gioventù, adattissima a Ringo Starr, un suo rifacimento di You Are 16. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.